È una festa da amare questa. Perché dicendo questa parola santi è come se affiorasse l'ipotesi di una umanità nuova. Ecco perché la amiamo. Festa della compagnia, festa della comunione dei santi e dei peccatori che si tengono per mano nell'immenso pellegrinaggio della vita, o verso la vita. Apocalisse, vidi una grande moltitudine. Festa dentro il cui nome, ogni santi, troviamo tutti i nomi, dentro la cui cornice troviamo i volti di tanti che abbiamo amato, i nostri santi, la parte buona e forte e gioiosa della nostra vita, della nostra storia. Festeggiare, amare questa festa perché ci assicura che, usiamo questa parola, il paradiso non è pieno di puri della vita eroica, ma anche dei peccatori perdonati, di gente come me, non so come voi. I santi sono uomini moltiplicati, cioè hanno lasciato una, non so che dire, cioè il centuplo qua giù è l'eternità di cui Gesù fa promessa. Vi darò tanti fratelli, vi darò un supplemento di umanità e di cuore. Vivrete di relazioni e non di cose, di persone. Di persone. E non di possesso. Uomini promessi a una umanità nuova. Provo a delineare, se non vi stanco, alcune caratteristiche dentro le quali noi possiamo trovarci. Quando diciamo ma chi è il santo? Non fatemi dire niente dei drappi che scendono che mettono là nella cosa di San Pietro. Santo è l'uomo meravigliato. In principio alla santità c'è la meraviglia. Perché è possibile dire questo? Perché sono quelle stesse meraviglie che guardavano e gridavano da tutte le creature. E Gesù che dice, è Dio che dice, ma che belle siete. E le meraviglie riservano gioia, destano viva se abbiamo con Dio e con la vita un rapporto disarmato, fiducioso, come quello dei bambini, come quello di Gesù. Santo è l'uomo dall'amore plurale, uomini e donne che fanno vivere l'amore di Dio nel mondo. ama Dio, ama il prossimo, ama te stesso, come frammento del segno, del sogno di Dio. È l'uomo che vive la polifonia del cuore, le grandi ispirazioni. Vigilanti e protesi verso il cielo che ricucisce con la terra. Santo è l'uomo che cerca di conoscere il suo, non è cosa da poco. Tutte le qualità, tutte le forze positive, tutto il buon grano depositato in ognuno di noi e ce lo portano con pazienza a non lasciarci schiacciare da qualche eventuale cespuglio di zizzania. L'uomo che cerca di conoscere il suo non spegne le passioni, ama, le orienta, le converte, altrimenti diventa un eunuco, un deviato, un fallito. Quando siete stufi, alzate la manina. Santo non è il contrario di peccatore. Siamo tutti un po' santi e un po' peccatori, diceva non so quale santo. Lo è anche la Chiesa, la comunione dei fedeli. Il giusto pecca 7 volte, ma 70 volte 7 compie opera di vita vera. La santità non si misura sull'assenza o sul numero dei peccati, ma sul suo bene seminato nei luoghi e nei lunghi solchi dei giorni. Ancora 2 tocchi. Santo, uso queste parole, ma voi siete intelligenti, le capite. Santo è l'uomo esagerato, nel senso che non si arrende alla mediocrità. Ama la vita ed è innamorato dell'impossibile. Per questo finisce espropriato dalle cose futili, superflue, della sua vita normale. Santo quindi è l'uomo della vita bella, perché bellezza è mescolare in giusta proporzione e quindi in perfetta congiunzione, quindi in perfetta armonia, finito e infinito, tempo e eternità, e oggi il nostro paradiso, il nostro non paradiso. Ma congiunge il prima e il poi, congiunge fiducia e fatica, grazia e perdono, dono e perdono, desiderio e dono. Ecco perché è bella questa festa. I santi anonimi, sono i legislatori segreti della storia. E con loro e dopo di loro è più facile e più bello essere uomini. C'è una piccola sottolineatura che ci tengo a fare su quell'elenco delle beatitudini. Non sempre ci si sofferma a riflettere su un fatto. Le 9 beatitudini non sono mai riferite direttamente a un atteggiamento religioso. La prima parte delle beatitudini, quella che compete a noi uomini, non nomina mai Dio o il nostro rapporto con Lui. Dice: beati i poveri, gli afflitti, i miti, i misericordiosi, gli affamati. Sembrano doti umane, atteggiamenti umani. Appunto, la santità della strada, la santità della casa, con tutto quello che comporta, della vita quotidiana, dei su e giù, di che bello o di che stufezza. Eppure, il Dio che sembra escluso viene invece evocato nella seconda parte di ogni beatitudine. È come dire il garante, come il premio, come colui che su questi atteggiamenti del cuore e della vita, sulla mitezza, sull'umiltà, sullo spirito di pace, pone il suo sigillo. E il suo futuro ha messo la sua presenza e la sua eternità congiunti. Oggi così posso pregare, nella preghiera del salmista. Griderò e questo povero uomo chiama perché il Signore lo ascolta. E questo è il germe della vita santa. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Pace in terra al cuore, buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo.